Io sono uno dei cinque ragazzi che in data appunto di martedì scorso si è presentato nell'ufficio del preside proprio per trattare con il preside circa i termini dell'occupazione. Cinque ragazzi, tra cui io, che appunto sono stati poi oggetto delle denunce di interruzione di pubblico servizio, ecco. Cos'è successo in quei giorni? Diciamo che gli eventi si sono un po' rincorsi l'uno dietro l'altro, tante cose sono successe durante l'occupazione, in maniera molto molto stringata e concisa potrei dire che abbiamo intrattenuto una serie di relazioni con la presidenza, ma anche con la vicepresidenza durante i primi giorni di occupazione, proprio perché è prassi, diciamo, all'interno del nostro liceo, ma non solo, il dialogare appunto col preside proprio per far dichiarare in qualche modo la scuola occupata e soprattutto nel nostro caso specifico del Minghetti che presenta due succursali, anche far chiudere le succursali. Il dialogo, diciamo che c'è stato, non è stato positivo sin dall'inizio, nel senso che il preside, appunto, sin da martedì mattina, quando siamo visti per la prima volta, ha dichiarato di non voler accettare il fatto che la scuola fosse occupata materialmente e men che meno dichiarare occupate le succursali. Quindi i passaggi delle trattative sono stati numerosi. Tante volte siamo appunto andati in presidenza per dialogare con il preside e solamente giovedì effettivamente la sede centrale, vuol dire, è stata dichiarata occupata e le succursali invece chiuse. Abbiamo visto appunto il preside anche sui giornali sostenere che la vostra fosse un'occupazione di un'estrema minoranza che avete imposto alla scuola di chiudere, è così? Non è così, nel senso che non ci si può aspettare, date anche le condizioni storico-sociali in cui viviamo oggi, non ci si può aspettare che tutta la scuola sia favorevole, tutta la scuola partecipi all'occupazione. È impossibile che 1200 studenti su 1200 al Minghetti vengano in plenaria. Non è stato così quest'anno, non è stato neanche gli anni scorsi, quando tutto questo polverone è stato sollevato, quando non ci sono state denunce, quando non ci sono state neanche le minacce di sospensione. Quest'anno la situazione è un po' cambiata, nel momento in cui il collettivo ha deciso in qualche modo di non fare una votazione durante la plenaria, chiamata appunto martedì, una decisione che è stata motivata dal fatto che già la plenaria è un atto di occupazione materiale e quindi sarebbe un po' contraddittorio, sarebbe un contrasenso votare all'occupazione quando di fatto tu stai già occupando la tua scuola e soprattutto è stata sentita come necessaria l'evitare di dipingersi la faccia di democrazia quando l'occupazione per definizione, per sua natura, non è un atto democratico. Ora, non voglio far sembrare l'occupazione come l'atto più radicale della storia, ma di fatto quando una persona vuole occupare, e questo ce lo attesta la storia, ce lo dice la storia, occupa quel posto, che sia un'università, che sia un edificio, che sia una scuola, non c'è bisogno di una votazione di chi effettivamente attraversa quel posto per poter occupare. È un atto in un certo senso di prevaricazione, motivata però chiaramente da degli ideali, in questo caso politici ben importanti e ben profondi. Volevo arrivare lì, appunto, l'occupazione è un atto politico, quali sono le ragioni che vi hanno portato a occupare? L'analisi che abbiamo dato in questo momento della società e del mondo che ci circonda è un'analisi che ci preoccupa. Abbiamo detto ripetutamente che nella nostra realtà sta suonando un allarme rosso, in particolare nel mondo della scuola. I motivi da cui scaturisce questo allarme rosso sono numerosi. In primo luogo il piano del Rearm Europe. L'Unione Europea in questo momento sta smascherando in qualche modo quelli che sono i suoi reali interessi. Sta smascherando che la necessità economica contingente è quella di investire sul settore più redditizio, quindi appunto la guerra, e quindi propone un piano appunto di riarmo che vale 800 miliardi di euro. Quindi sicuramente è una spesa ingente da un punto di vista, una spesa che va a tagliare sulla spesa pubblica, che già è stata particolarmente definanziata nel corso degli ultimi 30 anni, ma il passo successivo è, nel momento in cui andiamo a investire come Unione Europea 800 miliardi nella guerra, l'unico futuro che soprattutto a noi nuove generazioni l'Unione Europea ci prospetta è la guerra, la desolazione e la violenza. Il secondo elemento è la scuola di Valditara. Il ministro Valditara, di cui abbiamo fatto anche una sorta di pupazzetto, potremmo così chiamarlo, che abbiamo messo all'entrata della nostra scuola, vicino al portone, è un ministro che sicuramente agisce in piena continuità rispetto agli interessi sia dei privati che dell'Unione Europea. Il ministro Valditara ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi proprio perché ha messo in atto nell'istituzione scolastica italiana una serie di riforme abbastanza significative, che la vanno a cambiare, non dico radicalmente, ma sicuramente vanno ad apportare una serie di cambiamenti. In primo luogo la riforma dei tecnici professionali, che aumenta ancora di più le ore di PCT, un progetto progetto voluto da Renzi, quindi dal centro-sinistra nel 2015, che fondamentalmente va a svendere le scuole pubbliche ai privati, e soprattutto è un progetto che sfrutta e uccide, perché chiaramente gli studenti che vanno a lavorare nelle aziende e nelle fabbriche non vengono chiaramente pagati e vanno incontro a tutti i rischi che sappiamo essere propri del mondo del lavoro. Il rischio appunto rispetto alla sicurezza: 3 ragazzi, Giuseppe, Giuliano e Lorenzo, sono morti nel 2022 proprio durante le ore di PCTO, ma tanti altri rischi correlati al mondo del lavoro, quindi per esempio la violenza di genere, lo sfruttamento, tutte queste tematiche che il lavoratore effettivamente va ad incontrare e si va ad interfacciare con queste problematiche nel momento in cui diventa lavoratore. Per noi è assolutamente impensabile che lo studente a partire da 14-15 anni vada subito effettivamente a scontrarsi con quella che è la marcia in realtà del mondo del lavoro. Quindi il ministro Valditara, con la riforma dei tecnici professionali, ma con altre riforme che abbiamo citato nel nostro manifesto, come per esempio quella del latino alle medie, della Bibbia, in particolar modo la Bibbia, non si capisce esattamente quale sia la funzione di questa riforma. La Bibbia è già studiata, perché è già prevista un'ora di religione cattolica, non obbligatoria chiaramente, e non si capisce esattamente dove questa ora da dedicare allo studio della Bibbia venga presa, cioè quale altra materia venga in qualche modo, di quale altra materia si tolgano le ore. Si parla anche di una riduzione delle ore di storia e geografia. In particolar modo la storia è una materia che negli ultimi anni è stata particolarmente strumentalizzata proprio per portare avanti quella che è la storia dell'Occidente, i valori dell'Occidente, che ogni volta il ministro Valditara si premura di ripetere costantemente a tutta l'Italia, e quindi la storia invece dovrebbe essere proprio quello strumento culturale che ci permette di comprendere il nostro passato, non solo come Occidente, ma il passato di tutti i popoli, in un certo senso, di tutta l'umanità, e quindi anche di avere poi appunto gli strumenti per comprendere la realtà di oggi. Ma non solo, il governo Meloni si è macchiato in un certo senso di una politica repressiva, autoritaria nei confronti di chi liberamente esprime il proprio dissenso, in particolar modo con il DDL 1660, che viene ampiamente spiegato all'interno del nostro manifesto, che va ulteriormente a limitare gli spazi di espressione del conflitto, che è fondamento stesso della democrazia. Certo. Infine non potevamo che citare la Palestina. L'anno scorso avevamo occupato il nostro istituto, il nostro liceo, proprio in seguito allo scoppio in qualche modo del conflitto in Medio Oriente, quindi l'inizio vero e proprio del genocidio in Palestina perpetrato da parte di Israele. Quest'anno abbiamo avuto in qualche modo la coincidenza della rottura della tregua tra Israele e la Palestina proprio durante l'occupazione, quindi da un punto di vista ci siamo sicuramente mobilitati all'interno della nostra scuola, abbiamo fatto 2 azioni appunto con tutti gli studenti che erano presenti per ribadire quella che era la nostra posizione a favore e in sostegno al popolo palestinese, che da 75 anni sta subendo violenze, subendo soprusi da parte dello Stato di Israele. E inoltre anche all'interno del manifesto abbiamo citato appunto la questione della Palestina in un certo senso, quindi è ripetuto ancora una volta che Israele sta compiendo un vero e proprio genocidio ai danni del popolo palestinese. La cosa più grave è appunto la complicità di NATO, degli Stati Uniti e anche d'Italia e di Europa. Contro, diciamo, le denunce e le sanzioni disciplinari, come studentesse e studenti avete lanciato un appello rivolto proprio alla cittadinanza. Sai quante firme ha raccolto? Ad oggi siamo circa 8.500-9.000 firme. Qual è stata l'intenzione da parte nostra dietro appunto a questo appello? Noi abbiamo visto all'interno della nostra scuola la rappresentazione plastica di quella che è la repressione portata avanti da Valditara, nel senso che abbiamo parlato di Valditara e la sua repressione a livello teorico, e ne abbiamo avuto un riscontro pratico all'interno del nostro liceo. Quindi il preside, insieme a tutto il collegio docenti, che in questo ha votato praticamente all'unanimità, ha deciso, oltre alle denunce, di cui però si era già occupato il preside ed è un altro conto, anche perché poi le denunce vanno in mano alla questura e seguono altri binari, quelli appunto delle vie legali. Invece per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, appunto il collegio docenti ha deciso appunto di prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei 12 studenti, sembrava, che erano stati ritenuti responsabili appunto dell'occupazione. I 12 studenti non si capisce esattamente chi siano, nel senso che il preside non ha mai fatto nomi né davanti chiaramente al corpo studentesco né davanti al collegio docenti. Erano i 12 studenti che lui aveva appunto identificato come organizzatori di questa occupazione, benché non noi avessimo ripetuto che effettivamente ad organizzare l'atto dell'occupazione fosse un numero ben più elevato, si parla di circa 60-70 studenti. Ci sono stati poi dei passi avanti, diciamo, in questa vicenda, quindi appunto è stato chiamato un altro collegio docenti anche per discutere dei provvedimenti a livello didattico, a livello pedagogico, e successivamente sono stati anche chiamati i consigli di classe dei diversi studenti, in un certo senso imputati. Studenti che in realtà non erano più in numero di 12, ma in numero di 9. Quindi le 5 persone, tra cui il sottoscritto, che si erano presentati all'ufficio del preside per le trattative, più altri 4 studenti. Diciamo che quello che ha lasciato basita l'intera comunità scolastica e quello che ha un po' indignato tutti gli studenti del Minghetti è l'arbitrarietà con cui questi 12 studenti, cioè 9 studenti, sono stati scelti, proprio perché non si capisce sulla base di che criteri effettivamente il preside abbia estratto da tutti gli occupanti questi 12 studenti. Chiaramente i 5 che erano alle trattative si sono sin dall'inizio esposti, ma gli altri 4 non è che hanno avuto un ruolo fondamentale, nel senso che questi 4 erano all'interno dell'organizzazione, ma così come altri 50-60 studenti.